Siamo con la delegata alla cultura di Bologna e città metropolitana, Elena Di Gioia, per presentare il progetto iLove. Le va di raccontarci in cosa consiste questo progetto? Il progetto iLove è diffuso nelle case della comunità, in poliambulatori, in ospedali della città di Bologna grazie alla collaborazione con l'azienda USL e con la promozione del settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna, del patto per la lettura. Porta nei luoghi di cura un senso appunto di cura legato ai libri, alla lettura, e pensata dai più piccoli ai più grandi, anche alla popolazione più anziana. Consiste in una serie di pannelli affissi nelle corsie, nei luoghi di attesa, nei luoghi di sosta, e in alcuni pannelli da cui scaricare attraverso un QR code libri, riviste, filastrocche, contenuti musicali, quindi una biblioteca, ecco, da parete, nei luoghi di cura, nei luoghi anche di attesa, prima delle visite, dopo le visite, durante un periodo magari anche complesso di cura, e in cui non essere soli. Ecco perché anche per il Comune di Bologna è molto importante questo progetto, la collaborazione con l'azienda sanitaria, perché allarga appunto che cosa intendiamo per cura, che cosa intendiamo anche come forma di welfare culturale, e porta la possibilità di leggere contenuti culturali in più lingue, dalle filastrocche ai romanzi, ai racconti brevi, appunto anche alle riviste, in un momento di attesa, sia per chi fruisce dei servizi ospedalieri sanitari, sia per il personale stesso che vi lavora. Quindi manifesti e pannelli collocati appunto negli spazi di passaggio, nelle sale d'attesa, e in cui gratuitamente ovviamente scaricare questi contenuti. E sono pannelli che raccontano anche, sempre attraverso QR code, anche i servizi che si possono trovare nelle biblioteche del Comune di Bologna, e quindi è anche un modo per avvicinare, introdurre anche ai luoghi della cultura e alle biblioteche in particolare della città, e quindi riempiono pienamente quel senso di istituzioni culturali sempre più aperte su cui stiamo lavorando. Il progetto non è isolato, diciamo, si colloca in un universo più ampio di altre iniziative. Quali sono? Il progetto, che fa parte di un protocollo sottoscritto tra Comune di Bologna e azienda USL, allarga appunto da mesi, da tempo, anche a tante iniziative. La più recente, diciamo, è la poesia e note in corsia, quindi in alcuni reparti oncologici, per esempio, e non solo. Da qualche mese è possibile fruire di contenuti legati alla poesia, sempre da leggere o in alcuni momenti, anche grazie al coinvolgimento di volontari, anche letti proprio in performance, diciamo in presenza, e anche con delle forme di accompagnamento musicali. Quindi è un modo delicato di entrare in punta di piedi, e con la forza anche di una vicinanza alle persone, alla comunità, e a quel momento anche appunto complesso di passaggio di vita che si vive in una struttura ospedaliera, e quindi anche le poesie e le note appunto in corsia molto possono fare. E i progetti invece di più lunga data sono certamente Nati per Leggere, che è un progetto nazionale che si muove da più di 20 anni ed è proprio un programma nazionale che è dedicato alla promozione della lettura per le famiglie, per i più piccoli, le più piccole, fin dai primi mesi, insomma, anche di vita. Quindi questo è l'avvio, ecco, di un percorso che vogliamo sempre più solido, sempre più spesso, nell'intreccio in cui crediamo fortemente, nell'intreccio tra cultura nei momenti e nei luoghi appunto di vita delle persone, nell'intreccio tra anche nuovi servizi bibliotecari e sanitari che sempre di più vorremmo andare a intrecciare. Quindi una anche delle sfide adesso importanti che abbiamo messo in campo, per esempio, è la progettazione di una nuova biblioteca, la Biblioteca Ginsburg, che sorgerà al quartiere Savena a Bologna, di fronte alla Casa della Comunità, quindi di fronte a un luogo di presenza di servizi sanitari e sociali. Ecco, la sfida sarà innovare anche nel concetto di biblioteca e di casa della comunità, che insieme potranno mescolare e far fruire i reciproci servizi. È anche un modo, il welfare culturale, per cui lo intendiamo anche come forma di innovazione culturale per i luoghi e le pratiche culturali che stiamo mettendo in campo nella città di Bologna.